Se fai una foto testa in giù, poi la ribalti, sembra che reggi il peso del mondo. Sei davvero più furbo degli altri, ma l'apparenza inganna, come l'immagine che dai ad un dramma per accaparrarti i voti di una mamma. Se un bimbo cade dentro un pozzo, tu devi farci vedere il sangue, tu devi farci sentire che piange. Per me tu sei solo uno stronzo, ma mi sto sbagliando, perché il resto dell'Italia pensa tu sia un grande. Se guardi l'Afghanistan vedi morti di fame, se vai indietro 10 anni vedi le armate talebane, ma se vai indietro 20 anni vedi Mujahideen sparare mentre l'America stava a guardare, Osama stava a pagare. Se prendi un aereo guardi dall'alto, tra uno scoppio e l'altro vedi solo campi di oppio, ma da lassù le cose sono tutte uguali. Per questo non distingui i civili dai militari quando spari. Non c'è niente di inventato a parte le rime, a volte la realtà è uno schifo senza fine. La gente volta la faccia così velocemente che puoi vedere che faccia il culo contemporaneamente. Non c'è niente di inventato a parte le rime, a volte la realtà è uno schifo senza fine. La gente volta la faccia così velocemente che puoi vedergli la faccia di culo contemporaneamente. Se cerchi la carta scomparsa, potrai trovarla senza dubbio nella manica del prestigiatore. Se cerchi nel congelatore, la roba scaduta non c'è, è già stata spedita in Africa. L'Africa chiede aiuto, il mondo si unisce, in grande coro farà gara chi la impoverisce. Demmo una rapa in cambio del petrolio che svanisce, vi lamentate, vi mandiamo il papa che punisce. Mi dispiace ragazzi, niente di personale, qualcuno sale, un altro soffre per continuare. Questa è la filosofia per la maggiore, se credi nella legge del più forte, ora che sei in cima e fai cucire i palloni in Cina, ora che la Cina le porte, preparati alla morte, o metti tutti i tuoi figli a cucire in cantina. Non c'è niente di inventato a parte le rime, a volte la realtà è uno schifo senza fine. La gente volta la faccia così velocemente che puoi vedere chi faccia il culo contemporaneamente. Non c'è niente di inventato a parte le rime, a volte la realtà è uno schifo senza fine. La gente volta la faccia così velocemente che puoi vedergli la faccia di culo contemporaneamente. Nel secondo millennio la gente passa, prende il fucile e ammazza la famiglia e si implica una maniglia. E non c'è rispetto per le persone e sembra il nostro tempo sia il culmine della perversione. Ma nel primo millennio in una sala tortura un uomo con la testa stretta fra due assi chiodate mentre muore fra le risate delle persone. Penso non sarebbe stato della stessa opinione. Se fossi vissuto negli anni 20 saresti stato travolto dagli eventi e avresti marciato su Roma convinto fosse cosa buona, ma il tempo non perdona. Così se leggi un libro di storia ti accorgi che nel fascismo c'è stata ben poca gloria. Solo che dice nere, chi nero, di non avere più bicchiere. Ma la storia è noiosa da studiare, così ti perdi e oggi trovi le stesse teste dentro camicie verdi. Non c'è niente di inventato a parte le rime, a volte la realtà è uno schifo senza fine. La gente volta la faccia così velocemente che puoi vedere che faccia il culo contemporaneamente. Non c'è niente di inventato a parte le rime, a volte la realtà è uno schifo senza fine. La gente volta la faccia così velocemente che puoi vedergli la faccia di culo contemporaneamente. La gente volta la faccia così velocemente che puoi vedergli faccia e culo contemporaneamente.